o anni fa in Francia esplose un aereo in volo. Fecero delle indagini e dopo molte ricerche scoprirono che uno sportello era stato chiuso male. O un uomo, un giorno, contrasse un fastidioso raffreddore. Non ci fece caso e lo trascurò. Esso, poco tempo dopo, si trasformò in una bronchite, poi in polmonite, e in seguito a questa, l'uomo morì. Questi due casi hanno un fattore in comune, la trascuratezza, la negligenza. Questi due esempi ci trasmettono un insegnamento. Si possono subire grosse conseguenze negative anche da fatti trascurabili. Una minima cosa trascurata può avere gli stessi effetti letali di un grosso errore. La Bibbia, un libro che affronta gli eventi della vita con mirabile realismo, parla spesso della trascuratezza. Vediamone alcuni esempi. 1. Romani 1, 18-31. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché pur, avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti, uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far cose sconvenienti, essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni d'invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti al genitore, senza intendimento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma provano anche coloro. Sostenere che il creato sia il prodotto di un'esplosione è illogico, perché sappiamo per esperienza che il disordine non evolve in ordine, ma in un disordine sempre più accentuato. L'ordine che scopriamo nel nostro mondo così complesso e perfetto non può essere attribuito al caso. Giustamente qualcuno ha detto: questo orologio deve avere un orologiaio. Per questo tutti gli uomini sanno che, anche se alcuni lo negano, esiste un creatore. La parola di Dio è l'unico libro che rivela il creatore, che afferma che il creatore è Dio, che Dio si è fatto uomo. Nonostante ciò, come mai troviamo delle persone che negano l'esistenza di Dio e di Gesù Cristo? La scrittura risponde: non si sono curati di conoscere Dio. In effetti, ogni essere umano nasce con la consapevolezza che un essere superiore esiste, o almeno ha la problematica dell'esistenza di Dio. Alcuni però non hanno approfondito l'innata consapevolezza di un creatore, hanno trascurato la scintilla della conoscenza di Dio con i loro ragionamenti e, come ogni altra cosa negletta, hanno perso l'inclinazione a cercare Dio. Chi non crede che Dio esista ha commesso l'errore di colui che ha contratto un raffreddore che poi si è trasformato in una polmonite mortale. La sua fede è morta. Questi uomini sono inescusabili se non sanno discernere nell'opera della creazione la potenza eterna e la divinità di Dio. Testimoniavo un giorno della mia fede nel Creatore ad alcuni operai sul luogo di lavoro. Alla fine, Essi confessarono i loro dubbi e che questi impedivano loro di avere delle certezze sull'esistenza di Dio. Vedendo che si nascondevano dietro i loro dubbi, conclusi: quando sarete davanti a Dio, non sarete ritenuti colpevoli della vostra ignoranza, ma della vostra negligenza nell'investigare se quello che vi dico sia vero o no. Voi siete responsabili di verificare e di indagare con tutte le vostre forze se vi sia un Dio e chi sia, perché la questione ha una valenza eterna. Se trascurate di salare la minestra avrete delle piccole conseguenze, ma se trascurate di occuparvi della vostra anima le conseguenze saranno disastrose ed eterne. 2. Ebrei 2, 1 a 4. Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Molti secoli fa, Dio mandò dei profeti e degli angeli a parlare agli uomini. Essi avevano il compito di avvertirli che avrebbero raccolto le conseguenze delle loro azioni, conseguenze positive se facevano il bene, conseguenze negative se facevano cose malvagie. Ogni profezia, positiva o negativa, si adempì. La domanda che troviamo in questo brano è: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? L'autore della lettera agli Ebrei ha messo in evidenza una verità. Come esiste una legge fisica, esiste anche una legge spirituale. Se trascuriamo di annaffiare una pianta, questa muore. Se trascuriamo di mettere l'olio nella macchina, questa si ferma. Ma se trascuriamo le cose di Dio, la conseguenza sarà quella di essere giudicati da Dio. Più grande è il pericolo, più è saggio essere diligenti. Nel testimoniare faccio spesso questo paragone. Se qualcuno ti avverte che domani pioverà e tu non ti cauteli, la conseguenza sarà che ti bagnerai. Se qualcuno ti avverte che brucia la casa e ignori l'avvertimento, perderai la casa. Se invece qualcuno ti avverte che in casa tua ci è una bomba e trascuri l'avvertimento, molto probabilmente ci rimetterai la vita. Se Dio ti avverte che ti aspetta la condanna, tu puoi anche trascurare tale avvertimento, ma le conseguenze saranno terribili, sarai perduto per l'eternità. Come potrai scampare al giudizio di Dio? La domanda è solenne. Dio ha parlato. Se non presti l'attenzione dovuta, se non ti prendi la briga di interessarti delle cose di Dio, di occuparti di quello che è scritto nella sua parola, come potrai evitare la condanna meritata? Nessuno dovrà la sua eterna condanna al caso, ma al fatto di aver trascurato di occuparsi della propria anima. 3. Matteo 22, 5. E Gesù, riprendendo la parola, di nuovo parlò loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo: dite agli invitati, ecco io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli e i miei animali ingrassati sono ammazzati, ed è tutto pronto, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Un re fece le nozze di suo figlio e invitò molta gente, ma molti, non curandosene, se ne andarono. Chi al suo campo, chi al suo commercio. Gli affari della vita sono importanti e leciti, anzi, doverosi, perché Dio odia i fannulloni, gli oziosi. Eppure, ciò che è lecito può trasformarsi in illecito se diventa un motivo per disinteressarsi dell'invito di Dio. La parabola mette in evidenza che ciò che Dio offre è un pranzo di nozze, e un simile pranzo simboleggia quello che ci è di più festoso, allegro e gratuito. Dio offre a tutti un pranzo, non uno spuntino. Offre l'occasione di saziarsi, di rallegrarsi, come non ti è mai capitato. Non considerare tale invito è veramente un'offesa per chi lo ha fatto e una grande opportunità persa. Chi di noi si disinteresserebbe di un invito a nozze? Non sarebbe questa una mancanza di rispetto verso chi ci invita? Così Dio invita tutti gli uomini ad entrare nel suo regno, a godere dei benefici riservati a chi cammina nelle sue vie, ma se siamo indifferenti a un tale invito, cosa succederà? Ci escluderemo dalle gioie divine. All'inferno ci saranno non solo coloro che avranno commesso gravi crimini, ma anche persone per bene che si saranno occupate solo delle cose di questa vita. E questo è un grosso inganno, perché se commetti un crimine tutti ti disapprovano, ma se sei un buon padre, una madre operosa, nessuno ti accuserà, anche se non avrai partecipato alle nozze. 4. 1 Timoteo 4, 12-16. Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità, applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento, finché io venga. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani, da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascolta. Dio ha distribuito a tutti gli uomini dei doni. Ai figli di Dio ne ha dato qualcuno in più, quelli cioè che provengono dallo Spirito Santo. Così tutti i figli di Dio hanno dei doni che devono essere messi al servizio di Dio e della Chiesa. Come per ogni altra facoltà, è indispensabile che i doni vengano usati, altrimenti si perdono. Un credente spesso è attento a non commettere dei peccati morali, civili o religiosi, ma a volte non si rende conto di commettere un grosso errore. Trascura o non si dà pensiero del dono che Dio gli ha affidato. E questa è la ragione del perché giovani e meno giovani sono spettatori in chiesa e non collaboratori. Succede così che chi usa i doni serve sempre di più il suo Salvatore e la Chiesa, chi non li usa è portato ad usarli sempre meno. Davanti a Dio tutti dovremmo rendere conto dei doni che abbiamo trascurato. Possiamo essere delle brave persone, dei bravi credenti, irreprensibili, fedeli alle riunioni, ma sentirci un giorno rimproverare di aver trascurato il dono ricevuto per lo Spirito Santo. Il piano di Dio prevede un incarico individuale. Non abbiamo gli stessi doni, la stessa chiamata, ma tutti abbiamo la stessa responsabilità. L'incarico che Dio ci ha affidato è talmente importante che lo ha stabilito prima della fondazione del mondo. In effetti, l'Apostolo Paolo in Efesini 2:8-10 si riferisce ad opere che Dio ha preparato per noi affinché le pratichiamo. Per aiutarci a non trascurare il dono ricevuto, dobbiamo ricordare che i doni ci sono stati dati per il bene comune, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, per giungere all'unità della fede, per conoscere Gesù Cristo, per essere uomini fatti, per giungere all'altezza della statura perfetta di Cristo, per lo sviluppo del corpo di Cristo, per edificare se stesso nell'amore. È comprensibile allora come sia grave trascurare il proprio compito. È vero che il lavoro serio e costante è faticoso, e come sta scritto nel Salmo 126, ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma è altresì vero che chi semina il suo seme, al mattino e la sera, e non dà riposo alla tua mano, perché non sa quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se saranno buoni tutte e due, alla fine tornerà con canti di gioia, portando i suoi covoni. 5. Osea 7, 8-9. Efraim si mescola con i popoli, Efraim è una focaccia non rivoltata. Gli stranieri divorano la sua forza, ma egli non se ne accorge. Sì, ha dei capelli grigi sparsi qua e là, ma non se ne accorge. L'Eterno Dio rimprovera il suo popolo con queste parole. Israele stava diventando sempre più debole come nazione, ma non se ne accorgeva, come chi ha qualche capello grigio sparso sulla testa. Eppure, chi di noi non ha notato i primi capelli bianchi quando ha raggiunto una certa età? Chi di noi trascura il suo aspetto esteriore? Così dice l'Eterno Dio, nonostante che noi vediamo dei cambiamenti in negativo nella nostra vita, un allontanamento dalle vie di Dio, non prendiamo provvedimenti, non ci curiamo di rimediare. In definitiva, trascuriamo di prendere provvedimenti per migliorare. E così, spesso, i grossi peccati, le grosse cadute, sono precedute dal fatto di trascurare i piccoli errori. Non disse Gesù che chi è fedele nelle piccole cose è fedele anche nelle grandi? Dio invita tutti noi, ma principalmente i suoi figli, a prendersi cura di ogni piccolo particolare della nostra vita. Se imbocchiamo una strada incerta, interroghiamoci prima sul dove ci porterà. Se iniziamo una relazione seria, come il fidanzamento, consideriamo se la possiamo mantenere nel tempo. Dobbiamo rifletterci prima, perché quando ci rendiamo conto di aver sbagliato strada, di norma, l'abbiamo imboccata da molto tempo, perché l'errore all'inizio era talmente lieve che non ce ne siamo resi conto. Come quando montiamo una tenda e ci rendiamo conto di aver sbagliato. L'errore è dovuto alla collocazione dei primi paletti. Come le istruzioni vanno lette prima di montare una tenda, altrimenti ci troveremo a dover disfare ciò che abbiamo già fatto. Così gli errori nella vita devono essere riconosciuti e abbandonati subito, altrimenti si perderà tempo e fatica per rimediare, quando è possibile, a ciò che si è sbagliato. Ma, come spesso si dice, è meglio prevenire che curare. È meglio non trascurare nessun piccolo errore. 6. Ezechiele 33, 1 a 5. La parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di Baro, quando farò venire la spada contro un paese, e il popolo di quel paese prende un uomo dai suoi confini e lo pone come sentinella se vede la spada venire contro il paese, e suona la tromba e avverte il popolo. Chiunque ode il suono della tromba e non fa caso all'avvertimento, se la spada viene e lo porta via, il suo sangue sarà sul suo capo. Egli ha udito il suono della tromba, ma non ha fatto caso all'avvertimento, il suo sangue sarà su di lui. Chi invece ha fatto caso all'avvertimento salverà la sua vita. I profeti di Dio sono paragonati a sentinelle che avvertono del pericolo. Se qualcuno, dopo aver udito l'avvertimento, non se ne cura, morirà. La stessa cosa succede ai nostri giorni. Se hai avvertito qualcuno che una curva ha il fondo stradale ghiacciato e questi trascura l'avvertimento, se andrà fuori strada la colpa sarà sua. Così sono coloro che predicano la parola di Dio. Sono delle sentinelle che avvertono il pericolo. Essi, da parte di Dio, avvertono le persone dei pericoli presenti e futuri. E ognuno di noi è libero di prestare o meno attenzione, ma se non ci curiamo di prestare attenzione agli avvertimenti di Dio, ne subiremo le fatali conseguenze. Continuare indisturbati sul proprio cammino, ritenersi in fondo delle brave persone, anziché permettere alla parola di Dio di condizionare il nostro modo di vivere e di pensare, è un errore fatale. Il Vangelo è la potenza di Dio, non solo per la salvezza dalla perdizione, ma anche per riuscire a vivere conformemente al volere di Dio. Non tutti hanno capito che il Vangelo non deve essere solo ascoltato, ma creduto e vissuto. Se il Vangelo non produce nulla in noi, se non ci porta a chiedere il perdono dei nostri peccati, se il messaggio di Cristo non ci porta la pace, la gioia di sapere di essere un figlio di Dio, se non si ha ricevuto lo Spirito Santo, allora per noi è solo una bella canzone eseguita da chi ha una bella voce e sa suonare bene. Ascoltare la parola di Dio, continuando a vivere con gli stessi problemi e continuando a peccare come prima, significa essersi limitati ad udirla. Se non abbiamo determinato nel nostro cuore di seguire Cristo, allora siamo stati toccati solo emotivamente. Il nostro cuore è lontano da Dio. Dobbiamo decidere di vivere per Dio, di lasciare i nostri peccati per conformarti al volere di Dio. Presentavo l'Evangelo ad una persona che ostinatamente si dichiarava atea e sosteneva che dopo la morte tutto finiva. Gli feci questa domanda: cosa ne pensi? Se dopo la morte non ci è nulla, io sarò deluso per questa vita, ma non nell'altra, perché non esistendo più non potrò rimanere deluso. Se invece la vita continua dopo la morte, tu sarai deluso per questa vita e per l'eternità ti morderai la lingua, perché la vita continua. Non è meglio essere delusi per un breve periodo di tempo che scoprire di rimanere delusi per l'eternità. Dio è un gentleman. Non obbliga nessuno, non viola la libertà che ha data all'uomo, ma guai a colui che trascura le sue parole. Molti anni fa è morto. Improvvisamente il più abile fantino inglese si era suicidato. Aveva 29 anni e aveva già vinto 2749 corse. Lasciava una fortuna di parecchi milioni di sterline. Aveva raggiunto il suo scopo, ma aveva fallito lo scopo per cui Dio lo aveva creato. Aveva vinto il premio delle corse, ma perse il premio della corsa. Aveva guadagnato delle corone, ma aveva perso la corona di Dio. Può darsi che, come questo fantino, tu ottenga quello che ti eri prefissato. Ma se pensi solo alla tua vita terrena e non ti cura dell'eternità, sei saggio per un momento, ma stupido per sempre. A te la scelta. Gesù Cristo ci invita a credere in Lui, a consacrargli la vita. Di fronte a questo invito possiamo avere solo due atteggiamenti. Accettare o rifiutare. Trascurare l'invito di Cristo è già un rifiuto. Gesù disse: «Chi non è con me è contro di me». Gesù non ci lascia nessun'altra alternativa che il rifiuto o l'accettazione. Chiunque tu sia, non trascurare questo invito, perché se non hai creduto in Gesù Cristo, quale tuo Salvatore e Signore, rimarrai perduto per l'eternità. Se sei invece un figlio di Dio e hai trascurato il tuo voto di consacrazione a Gesù Cristo, perderai delle ricchezze eterne. Ti ricordo, le corone che sono riservate ai figli di Dio, ai guerrieri vittoriosi verrà data la corona della giustizia, 2 Timoteo 4:8. B. A quelli che corrono come atleti nello stadio verrà data una corona incorruttibile, 1 Corinzi 9:25-27. C. Ai fedeli fino alla morte verrà data la corona della vita, Apocalisse 2:10, Giacomo 1:12. D. Agli operai disinteressati verrà data la corona d'onore, 1 Tessalonicesi 2:19, Filippesi 4:1. La vita cristiana è una gara. Corri in modo da riportare il premio per essere trovato vestito e non nudo. 2 Corinzi 5, 2-3. Non essere indisciplinato, negligente, indifferente. Guardati dal trascurare la trascuratezza. Ottobre 1996. Ellero.